as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui ad Il Pane e le Rose, Radio Città Fucico 103.1 in FM. Ricordo a tutti che oltre che il martedì ad 1:30 potete ascoltarci anche in podcast, troverete l'indirizzo sulla pagina Facebook Il Pane e le Rose. Ormai facciamo tutti i podcast, anche perché l'orario non è tra i migliori, soprattutto per i lavoratori, tranne che se non fai il turno di mattina e fai 7 ore, perché se ne fai 8 finisce alle 2. E dunque anche un'altra ragione per ridurre l'orario di lavoro, come moltissime aziende del bolognese in cui facciamo il turno di mattina alle 6 all'1. Oggi continuiamo le nostre serie di puntate sul congresso della CGIL. L'ho detto 1000 volte. Chiaro, io faccio parte di questa organizzazione, sono anche un delegato, ho avuto la possibilità di partecipare a diversi congressi perché sono stato eletto, ho fatto il congresso nelle fabbriche come si fa ad ogni congresso della CGIL, per poi sono stato eletto nei vari organismi e mi sono fatto un po' di congressi in giro a Bologna, sia a FIOM che CGIL, e adesso sono stato la settimana scorsa a Cervia e lì ho ascoltato la relazione di Massimo Bussandri, segretario della CGIL, che ha sostituito un po' di tempo fa Giove, che poi è stato eletto alla fine del congresso. Io prima delle sue elezioni ho approfittato di un caffè che stava bevendo al bar e gli ho fatto un'intervista. Adesso io vi lascio all'intervista, prima però con un bellissimo pezzo di Nick Cave, uno di quei pezzi che sono ormai nella storia, sono diventati anche famosi per una serie televisiva, Red Right Hand di Nick Cave e The Bad Seeds. Poi ci ascolteremo Massimo Bussandri, ok? E poi ci vediamo per le conclusioni. Diciamo due cose. Take a little walk to the edge of town and go across the track. Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is his cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. Siamo qui con il segretario regionale della CGIL Bussandri, siamo al congresso della CGIL a Cervia, abbiamo ascoltato la tua relazione, io se devo dire la verità ho fatto diversi congressi, fino adesso è stata la relazione più di sinistra che ho ascoltato fino adesso. Insomma, volevo che tu ci facessi un po' il resoconto a noi della radio, ci raccontassi un po' la tua esperienza come segretario in breve e chiaramente la relazione è durata tantissimo. Modello sudamericano, diciamo, fatemi qualche battuta su questo, però l'abbiamo apprezzata. Volevamo che tu ci sintetizzassi, insomma, quello che hai detto nella tua relazione, perché hai detto cose importanti. Ma guarda, io parto dal titolo che abbiamo voluto dare a questo congresso, che è il titolo anche della relazione, e cioè una regione resistente, che contiene già intanto in primo luogo il richiamo ai valori, ai principi che la resistenza ha consegnato alla nostra Costituzione e intorno ai quali in questa regione negli anni si è saputo costruire un modello che però non è stato, come dire, il frutto di classi politiche, classi dirigenti, è un modello che prima di tutto è stato il frutto del protagonismo e dell'intelligenza delle lavoratrici e dei lavoratori di questa regione, a partire da quelli che oggi hanno i capelli bianchi. Ed è un modello che ci ha permesso di reggere meglio di altri territori alle intemperie di questi anni, agli scenari globali, la pandemia, poi la guerra, la rimodulazione di tutti i paradigmi politici, economici, sociali e culturali del Novecento. Ovviamente regione resistente non vuol dire autosufficiente, è una regione che vive calata in un contesto paese, in un contesto globale, e quindi in relazione ho provato a ripercorrere, come dire, alcune criticità evidenti, alcuni punti di frattura evidenti che ci sta consegnando questo vero ingresso nel nuovo millennio rappresentato dal doppio colpo pandemia-guerra, con la, appunto, la rimodulazione della globalizzazione, il tema dell'accorciamento delle catene del valore che probabilmente nei prossimi anni diventerà strategico, la crisi della democrazia che è spaventosa a livello globale ma che sta penetrando anche in Europa e nel nostro paese, non nelle forme eclatanti di Capitol Hill o del Parlamento brasiliano ma in forma di astensionismo esplosivo che vede purtroppo sempre più protagonista, tra virgolette, in questo senso, la parte più in difficoltà dell'elettorato, i più poveri, i più emarginati, che non vedono più nella democrazia e nella politica il terreno di risoluzione dei loro problemi, di risposta ai loro bisogni. Ne cito tre di questi punti, diciamo così, prioritari. Il primo, l'emergenza redditi, in particolare l'emergenza salari. Noi abbiamo bisogno di fare una profonda riflessione sulle nostre politiche contrattuali, su come le abbiamo condotte, sulla necessità di semplificare la pletora contrattuale presente in questo paese, che ovviamente non aiuta a costruire autorità salariale e a fare dei contratti collettivi nazionali un punto di autorità salariale. Avremo bisogno quindi di ragionare di una legge sul salario minimo fortemente ancorata alla contrattazione, di una legge sulla rappresentanza sindacale, ma abbiamo bisogno anche di farci protagonisti di una rimodulazione dei nostri perimetri e delle nostre strategie contrattuali. Così come emergenza salari, emergenza redditi vuol dire anche contrastare la precarietà, che è sempre più dilagante, che oggi è condizione sociale prima ancora che lavorativa, che in interi settori lavorativi è stabile, cioè è l'unico ossimoro che si è verificato nella storia del linguaggio, la stabile precarietà, che sarebbe come dire ghiaccio bollente, però a differenza del ghiaccio bollente la stabile precarietà esiste davvero. E per contrastarla anche lì dobbiamo rimodulare la nostra azione contrattuale, fare contrattazione inclusiva, ampliare il perimetro della contrattazione sociale, ma dobbiamo anche chiedere una profonda riforma della legislazione sul mercato del lavoro, perché il Jobs Act prima, ma anche le successive modifiche che ne hanno edulcorato ma non minato alla radice, ne hanno edulcorato alcuni tratti ma non minato alla radice la sua natura profondamente devastante, ecco, quel corpo di norme va profondamente rivisto. Abbiamo bisogno di costruire un welfare, di tenere e di ricostruire un welfare pubblico che è sotto minaccia, a partire dal sistema sanitario e sociosanitario. Le scelte nazionali sono evidenti, la riduzione degli investimenti nel PIL, la decrescita del fondo, la sostanziale decrescita del fondo sanitario nazionale, e abbiamo bisogno anche di farlo a partire da questa regione in cui è anche qui sotto minaccia la tenuta del nostro sistema sanitario e sociosanitario, certamente per effetto delle politiche nazionali, ma anche qui c'è bisogno di fare, di essere coraggiosi, di non rassegnarsi a questa linea appunto di depotenziamento e di svilimento del sistema sanitario pubblico, ma di provare a invertire la tendenza a partire da un territorio che ha contribuito a costruire in passato e a proporre come modello a tutto il paese un sistema sanitario e sociosanitario fortemente incentrato sul perimetro pubblico, che è garanzia di cura per tutti, di uguaglianza, perché non lascia indietro nessuno, non lascia indietro i più soli, i più fragili, i più anziani, i più poveri. E il terzo grande tema, questo è molto, come dire, dico solo il titolo perché è molto complicato, è il governo democratico delle grandi transizioni, quella demografica, quella digitale e quella ambientale. Giustizia sociale, giustizia ambientale e climatica vanno di pari passo, per cui questo sarà un argomento sul quale davvero, come dice anche il titolo del nostro documento congressuale, bisogna costruire il futuro, bisogna creare il futuro, e la CGIL Emilia Romagna deve mettere a disposizione il proprio patrimonio di elaborazione anche in questa direzione. Due cose mi hanno colpito. La prima, che tu hai parlato, sei stato l'unico fino adesso, chiaramente di una guerra a causa del conflitto dei capitali. Vuoi spiegarci meglio questa cosa? Sì, è chiaro che adesso noi siamo molto provati, colpiti ovviamente, come è giusto che sia, dalla guerra che ci è scoppiata nel cortile di casa, cioè alle porte dell'Europa. E questo ci fa dimenticare che in realtà da anni sono in corso tanti altri conflitti nel mondo dei quali ci interessiamo meno, perché sono più lontani dai nostri occhi e più lontani dalla gittata alla quale siamo abituati a guardare. Ma questa guerra alle porte dell'Europa ci ha fatto capire, se vogliamo leggerla bene, che da anni è in corso una guerra più sottile, che è una guerra insieme politica ed economica, per il controllo di aree geopolitiche, di risorse strategiche che sono dislocate in alcune aree ben precise del mondo. È anche sicuramente una guerra politica ed economica fra capitali e fra potenze tecnologiche, fra potenze militari imperialiste. È una guerra in qualche modo che con alcune chiavi di lettura del Novecento si sarebbe detta imperialista. È uno scontro fra imperialismi, certo. Un'altra cosa ti volevo chiedere, sinceramente io non sono d'accordo su una cosa che hai detto, nel senso che hai detto che fondamentalmente non spetta a noi, se mi sono sbagliato, non spetta a noi fare l'opposizione politica a questo governo. Allora, io sulla questione della precarietà faccio tante questioni che tu hai sollevato, è chiaro che tu bisogna chiedere al governo di fare delle leggi, di cambiarle per i lavoratori. Non fare un'opposizione politica davanti a un governo che fondamentalmente non le farà mai, non riesco a capire come riusciamo a farlo se non facciamo un'opposizione politica, se non andiamo in opposizione. Io intendevo che non possiamo essere noi il perno di un'opposizione che dovrà condursi in Parlamento da parte delle forze politiche. Di quella parlamentare. Io parlo di opposizione politica nel senso, come dire, della dialettica fra le forze politiche. Noi non siamo una forza politica, siamo una forza sociale, credo importante, siamo mi viene da dire quasi l'unica organizzazione di massa rimasta in questo paese. Il nostro dovere non è quello di entrare nelle dinamiche del confronto e della dialettica politica parlamentare, il nostro compito è quello di provare a ricostruire un blocco sociale che oggi purtroppo è scassato e frammentato, questo sì, intorno a valori fondativi e intorno a sbocchi politici che sono completamente all'opposto rispetto a quelli declinati dal governo Dunque, Meloni. Tu sei per il conflitto verso questo governo, per andare a confliggere, oppure torniamo sempre ai tavoli come abbiamo fatto in questi anni, perché alla fine abbiamo purtroppo rincorso dei tavoli che non hanno portato a nulla? Guarda, io distingo due livelli. Noi siamo un'organizzazione di rappresentanza. No, te lo chiedo anche perché Bonaccini oggi ha fatto degli appelli. Noi siamo un'organizzazione di rappresentanza sociale e quindi noi abbiamo il dovere di confrontarci con tutti i governi e con tutte le amministrazioni, anche locali, a qualsiasi colore politico appartengano, portando ovviamente sempre il nostro punto di vista e stando sul merito dei provvedimenti. Questo è un punto. Dopodiché è chiaro che se abbiamo a mente, come abbiamo messo al centro di questo congresso, un'idea di dignità, di centralità del lavoro, di recupero del valore costituzionale del lavoro come fattore di cittadinanza e non come fattore della produzione, io credo che quell'idea la possiamo portare avanti solo con forze, stimolando, invitando anche alla ricomposizione di una rappresentanza politica del lavoro, quelle forze politiche oggi un po' carenti, ma speriamo non sia sempre così, ecco, la dico in questo modo, che si riconoscono prima di tutto nel valore del lavoro contenuto nella Costituzione. Se viene messo in discussione il valore del lavoro contenuto nella Costituzione per portare a un'altra, diversa idea di lavoro, io credo che noi dovremmo scendere in piazza quotidianamente. Ok, ti ringrazio per il chiarimento, grazie mille. Grazie a te. If you plan to stand still, would you move aside? If you can be locked down, God knows I have tried. Oh my word, I've been waiting for you to walk on by. Oh my word, I've been staying inside, safe and dry. Will you live underground and crawl out when it's light? Do you fail to stand up and stand in when it's right? Oh my word, I'm just saying, would you aim this high? Oh my word, I'm just waiting for you at my side. Avete ascoltato Flip Grater, Oh My World, davvero un pezzo stupendo. Beh, certamente non è Nick Cave, però veramente molto bello, io amo tantissimo questo pezzo. Prima del pezzo avete ascoltato Massimo Bussandri, avete sentito quello che ha detto? L'ho definita la relazione più di sinistra che ho ascoltato fino adesso, chiaramente per tutte le relazioni che ho ascoltato, congresso FIOM Bologna, congresso CGL Bologna, congresso regionale della FIOM. Non faccio i nomi dei segretari, però insomma è stato il discorso in cui si è sentito finalmente parlare di imperialismo, di guerra imperialista. Noi ormai sono anni che la diciamo, questa guerra tra NATO e Russia è iniziata addirittura molto tempo fa, ma nemmeno il 2014, ne parliamo come sappiamo benissimo dal 2008, dalla rivoluzione arancioni che sono stati in Ucraina e anche in altri posti, che sappiamo che c'è una guerra che purtroppo ora è diventata militare e rischia di trasformarsi in una terza guerra mondiale. Bussandri ha parlato di questioni importanti come precarietà, come sanità, ha chiarito il punto che insomma che bisogna in qualche modo reagire a quello che sta accadendo. Ora, sulla questione dell'opposizione politica, ormai tutta la CGL dice non siamo noi che dobbiamo fare l'opposizione politica. Chiaramente Bussandri ha spiegato che quando si parla di opposizione politica si parla di opposizione parlamentare. È chiaro che in Parlamento non ci siamo, siamo autonomi dei partiti e questo fa sì che comunque sia, noi ci confrontiamo con tutti, anche con questo governo, ma siamo indipendenti da tutti. Ora, questo se è vero in linea generale, sappiamo benissimo che in realtà all'interno del CGL è forte chi ancora guarda il PD come un punto di riferimento. E sappiamo che anche all'interno del PD c'è qualcuno che cerca in qualche modo di influenzare alcune frange della CGL. Detto questo, è chiaro che secondo me il problema è un altro. Guardando quello che accade ad esempio in Inghilterra, il problema è o PD o non PD, quando c'è un governo come questo, a prescindere da chi c'è, si fa l'opposizione. L'opposizione è da farsi, l'opposizione politica sindacale è molto forte. In questo momento in Francia c'è sono manifestazioni di 1 milione di persone contro il governo, senza insomma guardare a nessun partito, per non parlare della Gran Bretagna, in cui ormai i sindacati sono scesi in piazza e stanno combattendo una battaglia sui salari, non solo, molto forte, e hanno fatto cadere diversi governi. Poi sui giornali non diranno mai che la colpa è delle manifestazioni, ma certamente hanno dato un bel duro colpo a questo. E quello che dovremmo fare anche noi, io spero che la CGL si svegli, nel congresso nazionale ci sarà a breve, si prendono delle decisioni. Io ho ascoltato Landini al congresso CGL, in cui chiaramente ha detto anche delle cose importanti, e tra un po' dovremo iniziare una battaglia. Chiaramente dovremo cercare di radunare le forze, coinvolgere i lavoratori il più possibile per iniziare una campagna che va fatta, perché questo governo sta facendo cose per noi gravissime. ne parleremo più in là. Chiaramente non solo problemi legati al fatto che ha scelto chiaramente di non rappresentare il lavoro dipendente, ma le partite IVA, ma non solo, vuole fare delle riforme politiche come il presidenzialismo, l'autonomia differenziata, che sono questioni che vanno a colpire anche il sindacato direttamente, e questo non lo possiamo accettare. Ora io spero che la CGIL si cambi, si muova e riesca a, insieme a tutti i sindacati che vogliono partecipare, a fare quello che stanno facendo in altri paesi. È un augurio che faccio anche a me stesso come lavoratore, perché altrimenti ne va non solo delle condizioni di tutti i lavoratori, che ormai siamo veramente messi davvero male, ma anche della mia come lavoratore. Mi auguro che questo accada. A presto, ci vediamo alle prossime puntate. Ci saranno altre puntate, altre interviste che ho fatto a persone importanti, e tratteremo anche altri temi. Salve a tutti. Orgoglioso de estar, orgoglioso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva!